Una coscienza antica abita dentro una buia sala da banchetti, accanto al soffitto di una mente il cui pavimento si muove come 10.000 scarafaggi quando entra un raggio di luce. Non appena tutti i pensieri riuniscono in un attimo di accordo un corpo che non espelle più nulla, gli scarafaggi comprendono una verità che nessuno osa nominare. Una notte tutto mi fu rivelato. Come posso ancora parlare? Lei, lui, l'ermafrodito ferito che si credeva solo, scopre che in realtà la stanza brulica e prega di non svegliarsi mai dall'incubo. Ed erano tutti là, tutti, dal primo all'ultimo, e sapevano come mi chiamavo quando scappai come uno scarafaggio lungo gli schienali delle loro sedie. Ricorda la luce e credi nella luce. Un attimo di chiarezza prima della notte eterna. Fate che non dimentichi. Sono triste. Sento che il futuro è senza speranza e le cose non possono migliorare. Sono stufa, insoddisfatta di tutto. Sono un fallimento come persona. Sono colpevole e vengo punita. Vorrei uccidermi. Prima riuscivo a piangere, ora sono oltre le lacrime. Ho perso interesse negli altri. Non riesco a prendere decisioni, non riesco a mangiare, non riesco a dormire, non riesco a pensare, non riesco a vincere il senso di solitudine, di paura, di disgusto. Sono grassa, non riesco a scrivere, non riesco ad amare. Mio fratello muore, il mio amante muore, sono io che li uccido. Galoppo verso la morte. Ho terrore dei medicinali. Non riesco a fare l'amore. Non riesco a scopare. Non riesco a stare da sola. Non riesco a stare con gli altri. Ho i fianchi troppo grandi. I miei genitali no mi piacciono. Alle 4:48, quando la disperazione mi fa visita, mi impiccherò al suono del respiro del mio amante. Io non voglio morire. Mi sono depressa così tanto al pensiero della mia mortalità che ho deciso di suicidarmi. Io non voglio vivere. Sono gelosa del mio amante addormentato e desidero ardentemente il suo stato di coscienza indotto. Quando si sveglierà, lui invidierà la mia notte insonne di pensieri e discorsi non impastati dai farmaci. Ho deciso di consegnarmi alla morte quest'anno. Alcuni diranno che questa è autocommiserazione. Sono fortunati a non sapere quanto è vera. Altri capiranno solo la sofferenza. Sta diventando la mia normalità. Non è durata molto. Non ci sono stata molto. Ma mentre bevo caffè nero amaro, riconosco in una nuvola di vecchio tabacco l'odore dei medicinali. E qualcosa mi tocca in un punto ancora dolente. È una ferita di 2 anni fa. Si apre come un cadavere. E una vergogna a lungo sepolta grida il suo tremendo, ripugnante dolore. Una stanza di facce senza espressione osserva la mia sofferenza, così priva di senso da essere frutto di una mente diabolica. Il dottor questo, il dottor quello, Il dottor come va? Che anche lui di passaggio e crede di poter piombare qui a prendere per il culo. Ma mentre brucio in un tunnel, rovente di delusioni, l'umiliazione definitiva. Tremo senza ragione, inciampo nelle parole e non ho più nulla da dire sulla mia malattia, che in ogni caso consiste semplicemente nell'essere consapevole che nulla ha più senso perché sto per morire. Sono a un punto morto. Suadente la voce della ragione dello psichiatra mi dice che c'è una realtà oggettiva in cui il mio corpo e la mia mente sono una sola cosa. Ma io non sono qui. Non ci sono mai stata. Il dottor questo annota. Il dottor quello annuisce con un mormorio di approvazione. Mi guardano, mi giudicano, annusano l'odore raggelante di fallimento che mi trasuda dalla pelle, la disperazione che mi lacera, il panico spossante mentre resto a bocca aperta terrorizzata dal mondo. E mi chiedo, perché tutti mi guardano e sorridono come se conoscessero segretamente la mia più dolorosa vergogna? Vergogna. Vergogna. Vergogna. Annegate nella vostra vergogna. Dottori sensibili, dottori completamente di fuori, dottori che scambieresti per pazienti se non ti dimostrassero il contrario, dottori che fanno sempre le stesse domande, che mi mettono le parole in bocca, che mi offrono cure chimiche per un'angoscia congenita, dottori che si parano il culo gli uni con gli altri, finché non mi viene voglia di gridare disperatamente per te, l'unico che mi ha guardata negli occhi, che ha sorriso alle mie battute macabre pronunciate con voce d'oltretomba, che mi ha presa per il culo quando mi sono rasata la testa, che mi ha mentito dicendomi che gli faceva piacere vedermi. Ti ho amato, ti ho creduto, e non è il fatto di perderti che mi fa star male, ma le tue bugie del cazzo, quelle buffonate spacciate come prescrizioni mediche, la tua verità, le tue bugie, non le mie. Credevo che tu fossi diverso e che magari la provassi quell'angoscia che ogni tanto ti traversava il volto minacciando di esplodere. E invece no, ti paravi il culo come ogni altro povero stronzo di mortale. Per la mia mente questo è un tradimento e il soggetto di questi frammenti confusi è la mia mente. Niente potrà placare la mia rabbia. Niente potrà restituirmi la fiducia. Questo è un mondo in cui non voglio vivere. Hai deciso cosa fare? Mi faccio un'overdose, mi taglio le vene e poi mi uccido. Tutto insieme, così non potranno dire che era una richiesta d'aiuto. Non funzionerà. E invece sì, non funzionerà. Comincerai ad addormentarti dopo l'overdose e non avrai la forza di tagliarti le vene. Starò in piedi su una sedia con un cappio intorno al collo. Pensi che da sola potresti farti del male? Ho paura di sì. Magari la paura può proteggerti. È la paura che mi tiene lontana dalle rotaie dei treni. Spero che la morte sia la fine di tutto. Mi sembra di avere 80 anni. Sono stanca della vita e la mia mente vuole morire. È una metafora, non è la realtà. È una similitudine, non è la realtà. Non è una metafora, è una similitudine. E anche se lo fosse, la caratteristica tipica della metafora è che è reale. Non hai 80 anni. Dico bene? Dico bene? Dico bene oppure no? Disprezzi tutti quanti o me in particolare? Non ti disprezzo. Non è colpa tua. Sei malata. Non è vero. No, no, sono depressa. La depressione è rabbia. E tu? Cosa hai fatto? Chi c'era con te? A chi dai la colpa? A chi dai la colpa? A chi dai la colpa? A me! Corpo e anima non possono essere veramente uniti. Annegherò nella disforia, nel freddo e nero stagno del mio io, la tomba della mia mente immateriale. Basta una parola su una pagina ed è subito dramma. Scrivo per i morti, i non nati. Dopo le 4:48 non parlerò più. Sono stata morta per molto tempo. Torno alle mie radici. Certe volte mi giro e sento il tuo odore e non riesco ad andare avanti. Non riesco ad andare avanti senza esprimere questo terribile, tremendo, fisicamente doloroso desiderio che ho di te. E io non credo che sento questo per te e tu non senti nulla. Non senti nulla. Non senti nulla. Ed esco alle 6 di mattina e inizio a cercarti. Se ho sognato qualcosa su una strada, un pub o alla stazione, vado là e ti aspetto. Sai, mi sento veramente manipolata. Nella mia vita non ho mai avuto difficoltà a dare agli altri quello che volevano, ma nessuno è riuscito a fare lo stesso con me. Nessuno mi tocca, nessuno mi si avvicina. Solo tu mi hai toccata in un punto così a fondo da non credere. Ed io non riesco a fare lo stesso, perché non riesco a trovarti. Com'è lei? Come farò a riconoscerla quando la vedo? Morirà, morirà, morirà. Anche lei. Credi che sia possibile che una persona nasca nel corpo sbagliato? Credi che sia possibile che una persona nasca nell'era sbagliata? Vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo. Perché mi rifiuti non essendoci mai? Vaffanculo. Perché mi fai sentire una merda con me stessa? Vaffanculo. Perché fai morire dissanguati il mio amore e la mia vita? Vaffanculo a mio padre, perché si è fottuto per bene la mia vita. Vaffanculo a mia madre, perché non l'ha lasciato. Ma soprattutto, vaffanculo a Dio, che mi ha fatto amare una persona che non esiste. Vaffanculo. Ha ha ha! Tesoro, cosa hai fatto al braccio? Mi sono tagliata. È un gesto da persone immature, in cerca di attenzione. Ti ha dato sollievo? No. Ti ha allentato la tensione? No. Ti ha dato sollievo? Ti ha dato sollievo? No. Non capisco perché l'hai fatto. Ti ha allentato la tensione? Posso guardare? No. Vorrei guardare per vedere se è infettato. No. Lo sapevo che l'avresti fatto. Lo fa un sacco di gente. Dicono che allenta la tensione. E tu? L'hai mai fatto? No. Figuriamoci. Troppo sano. Troppo sensibile. Non so dove l'hai letto, ma non allenta la tensione. Perché non mi chiedi perché? Perché mi sono tagliata il braccio? Ti va di dirmelo? Sì. Allora dimmelo. Chiedimelo. Perché ti sei tagliata il braccio? Perché è fortissimo. È straordinario. Posso guardare? Puoi guardare ma non toccare. E secondo te non sei malata? No. Io credo di sì. Ma non è colpa tua. Devi essere più responsabile delle tue azioni. Per favore, non lo rifare. Mi spaventa la mancanza di quella lei che non ho mai sfiorato. L'amore, l'amore mi tiene schiava in una gabbia di lacrime. Tutto passa, tutto si muove, tutto viene a noia. Il mio pensiero si allontana con un sorriso omicida, lasciando che un'angoscia stridente gridi dentro la mia anima. Tra 10 anni sarà sempre morta. Quando avrò imparato a conviverci, a cavarmela, quando passerà un giorno senza che io ci pensi, lei sarà morta. Quando sarò una vecchia che vive per strada e non ricorda il suo nome, lei sarà sempre morta. Lei sarà sempre morta. Ed è proprio finita. Devo stare da sola. Amore mio, perché mi hai abbandonata? Lei è il giaciglio su cui non mi allungherò mai e la mia vita non ha senso alla luce di questa perdita. Nata per essere sola, per amare chi non c'è. Trovami, liberami da questo dubbio angosciante, lamento inutile, orrore al riposo. Posso riempire uno spazio, posso riempire una giornata, ma non posso riempire il vuoto del mio cuore, il bisogno vitale per cui morirei. Crollo nervoso. Per favore, non spegnete la mia mente cercando di rimetterla a posto. Ascoltate e capite. E se mi disprezzate, non fatemelo capire. Almeno non a parole. Almeno non a me. Non è colpa tua. Non è colpa tua. È la sola cosa che mi sento dire. Non è colpa tua. È una malattia. Non è colpa tua. Lo so che non è colpa mia, ma l'avete detto tante di quelle volte che inizio a pensare che sia colpa mia. Non esiste nessun farmaco che può dare senso alla vita. Non riuscirei a pensare. Niente può ostacolare il mio lavoro più di un suicidio. Ho sognato di essere dal dottore questa notte e che mi dava 8 minuti di vita. Sono stata seduta nella sala di attesa per 1 ora e mezza. Va bene, prenderò le medicine, farò la lobotomia chimica, radiamo al suolo tutte le funzioni più sofisticate del mio cervello. Forse così sarò più capace di vivere. Spiacevole, inaccettabile, non ispirante, impenetrabile, irrilevante, irriverente, irreligiosa, incorreggibile, antipatica, spostata, incorporea, scomposta, irrazionale, irriducibile, incorreggibile, irriconoscibile, deragliata, squilibrata, deforme, senza forma, oscura al punto di annegare in un mare di logica, questo orrendo stato di paralisi, sempre malata. Sintomi! Non parla, non mangia, non dorme, nessun impulso sessuale, disperata, vuole morire. Diagnosi, stato di sofferenza patologico. Sertralina, 50 mg. Peggioramento dell'insonnia, ansia grave, anoressia, perdita di peso 17 kg. Aumento di pensieri, intenzioni, progetti di suicidio. Terapia interrotta a seguito del ricovero. Zoplicone, 7,5 mg, addormito. Terapia interrotta a seguito di un'eruzione cutanea. La paziente tenta di lasciare l'ospedale contro il parere medico, trattenuta da 3 infermieri il doppio della sua taglia. La paziente minaccia e non collabora. Pensieri paranoidi. Crede che il personale ospedaliero stia cercando di avvelenarla. Melleril, 50 mg, collabora. Lofepramina, 70 mg, aumento a 140, poi a 210, recupera 12 kg di peso, perdita della memoria a breve termine, nessun'altra reazione. Lite con il dottore più giovane dell'ospedale che ha accusato di tradimento dopo che si è rasata la testa e tagliata il braccio con una lametta. La paziente viene dimessa e affidata a una comunità all'arrivo al pronto soccorso di un paziente in grave crisi psicotica, più bisognosa di lei di un letto in ospedale. Citalopram, 20 mg, tremito mattutino, nessun'altra reazione. Lofepramina e citalopram assunti in maniera disordinata dalla paziente dopo che si è stufata degli effetti collaterali e della mancanza di miglioramenti tangibili. Sintomi da crisi di astinenza, vomito e confusione. La paziente continua a cadere, svenire e correre davanti alle macchine. Idee maniacali. Crede che il terapeuta sia l'anticristo. Fluoxetina cloridato, nome commerciale Prozac, 20 mg, aumentati a 40, insonnia, appetito irregolare, perdita di peso 14 kg, ansia grave, incapacità di raggiungere l'orgasmo, pensieri omicidi nei confronti di alcuni dottori e produttori di medicinali. Cura interrotta. Stato d'animo incazzata. Sentimenti incazzatissima! Torazina, 100 mg, addormito, è più calma. Venlafaxina, 75 mg, aumentati a 150, poi a 225. Vertigini, pressione bassa, emicranie. Nessun'altra reazione. Cessano. La paziente rifiuta il Seroxat. Ipocondria, citi intermittenti e gravi perdite di memoria come segno di discinesia e di demenza tardiva. Ha rifiutato ogni ulteriore cura. 100 aspirine e una bottiglia di Cabernet Sauvignon bulgaro del 1986. La paziente si sveglia in una pozza di vomito e ha detto: dormi con un cane e ti sveglierai pieno di pulci. Forti dolori allo stomaco. Nessun'altra reazione. Vedo delle cose. Sento delle cose. Non so più chi sono. Da dove comincio? Dove mi fermo? Come comincio? Come faccio a fermarmi? Come faccio a fermarmi? Come faccio a fermarmi? Come faccio a fermarmi? Come faccio a fermarmi? Morirò. Non ancora. Ma ci siamo. Tagliare qui! Non lasciate che questa cosa mi uccida! Mi ucciderà, mi schiaccerà, mi manderà all'inferno! Ti prego, salvami da questa follia che mi divora! Credevo che non avrei mai più parlato, ma ora so che c'è qualcosa di più nero del desiderio. Forse mi salverà, forse mi ucciderà. Un lugubre fischio, che è il grido di crepacuore attorno alla coppa diabolica sul soffitto della mia mente. Una coperta di piattole ferma questa guerra. Mi sento le gambe vuote, non ho più nulla da dire. È questo il ritmo della pazzia. Ho gassato gli ebrei, ho ucciso i curdi, ho bombardato gli arabi, mi sono scopata a bambini piccoli mentre imploravano pietà. I campi minati sono i miei. Tutti hanno abbandonato il party per colpa mia. Ti succhierò via i tuoi occhi di merda, li manderò a tua madre in una scatola e quando muoio mi reincarnerò in tuo figlio, ma 50 volte peggio. E come una pazza trasformerò la tua vita di merda in un inferno vivente. Non voglio. Non voglio. Non mi guardare. Non mi guardare. Non mi guardare. Perché sono ferita? Ho visto immagini di Dio. Tutto passerà. Quando avrete visto la luce della disperazione, il bagliore dell'angoscia, sarete condotti tutti nelle tenebre. La dermatosi sulla pelle, l'agitazione del cuore, la coperta di piattole su cui danziamo questo infernale stato di assedio. Tutto passerà. Tutte le parole del mio fiato fetido. La salute si trova sulla montagna della casa del Signore, all'orizzonte dell'anima che rinuncia per sempre. La testa è malata, la reticella del cuore è stracciata. Il grande dolore comincia. Alle 4:48, quando la lucidità mi fa visita, per 1 ora e 12 minuti sono di nuovo in me. Passata quell'ora, Sarò di nuovo andata, marionetta a pezzi, folle, ridicola. Ora sono qui e riesco a vedermi, ma quando sono rapita da basse illusioni di felicità, l'orrendo incantesimo di questo motore di magie, non riesco a toccare il mio vero io. Perché mi credi in quei momenti e non adesso? Nulla importa ormai. Smettila di giudicare delle apparenze e dai un giudizio obiettivo. Il tuo scetticismo non guarirà nessuno. Non mi guardare. Ecco, io sono qui e c'è il mio corpo. In un momento disgraziato in cui non ci sono disgrazie. Tagliatemi la lingua, strappatemi i capelli, mozzatemi gli arti, ma lasciatemi l'amore. Preferirei aver perduto le gambe che mi avessero strappato via i denti, cavato gli occhi, piuttosto che aver perduto l'amore. La lucidità si trova nel centro di convulsione, lì dove la follia viene consumata dall'anima spaccata in due. Mi vedo, la mia anima è presa in una ragnatela di ragioni, tessuta da un dottore per aumentare il numero dei sani. Alle 4:48 dormirò. Sono venuta da te per essere guarita. Tu sei il mio dottore, il mio salvatore, il mio giudice onnipotente, il mio prete, il mio Dio, il chirurgo della mia anima. Ed io, la tua discepola, verso la lucidità. Per realizzare traguardi e ambizioni, per superare gli ostacoli e raggiungere uno standard elevato, per far crescere l'autostima mettendo a frutto il mio talento, per superare le resistenze, per avere controllo e influenza sugli altri, per difendermi, per difendere il mio spazio psicologico, per affermarmi, per avere attenzioni, per essere guardata e ascoltata, per eccitare, stupire, affascinare, scioccare, incuriosire, divertire, intrattenere o sedurre gli altri, per essere libera dalle restrizioni della società, per fare resistenza alle coercizioni e alle costrizioni, per essere indipendente, per sfidare le convenzioni, per evitare il dolore, per evitare la vergogna, per cancellare le umiliazioni subite con nuove azioni, per mantenere il rispetto di me stessa, per reprimere la paura, per superare la debolezza, per essere parte di, per essere accettata, per risultare attraente ed essere finalmente corrisposta, per conversare in modo amichevole, raccontarsi storie, scambiarsi idee, sensazioni e segreti, per comunicare, per ridere, per saper accettare, per guadagnarsi l'affetto, per godere, per nutrire, aiutare, proteggere, coccolare, consolare, sostenere, curare o guarire, per essere nutrita, aiutata, protetta, coccolata, consolata, sostenuta, curata o guarita, per essere perdonata, per essere amata, per essere libera. Ingrassata, arenata, scaraventata lontano, il mio corpo scompensa, il mio corpo vola in pezzi, più nulla a cui aggrapparmi, più di quanto non abbia già fatto. Tu avrai sempre un pezzo di me, perché hai avuto la mia vita tra le mani, quelle mani brutali. Questo mi distruggerà. Credevo fosse silenzioso finché non è diventato silenzioso. Come hai fatto a darmi questo dolore? Non ho mai capito cos'è che non devo sentire. Come un uccello in volo in un cielo gonfio, la mia mente è tormentata dai lampi mentre vola via dal tuono che li segue. Non vedo niente. Cosa sono? La bambina dei no. Da una camera della tortura all'altra, una terribile sequenza di errori imperdonabili. Ogni gradino della mia vita su cui sono caduta. La disperazione mi spinge al suicidio. Un'angoscia che i dottori non riescono a curare e non vogliono capire. Spero che tu non capisca, perché mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Ancora quell'acqua nera, profonda come sempre, fredda come il cielo, ferma come il mio cuore quando non sente la tua voce. Congelerò all'inferno. Certo che ti amo. Mi hai salvato la vita. Vorrei che non l'avessi mai fatto. Vorrei che non l'avessi mai fatto. Vorrei che mi avessi lasciata sola. Non so più dove guardare. Guardare le stelle, predire il passato, cambiare il mondo con un'eclissi d'argento. L'unica cosa eterna è la distruzione. Stiamo tutti per andarcene, cercando di lasciare un segno più duraturo del mio. Ciò che è avvenuto è stato solo l'inizio. Un terrore ciclico che non è la luna, è la terra, una rivoluzione. Vedo solo neve e nera disperazione. Per favore, non tagliatemi tutta per sapere come sono morta. Ve lo dico io come sono morta. Tutto quello che avevo, giù, in gola, taglio, ed è fatta. Una sinfonia per uno strumento solo. Alle 4:48, l'ora felice in cui la lucidità mi fa visita, dolce oscurità che mi penetra negli occhi. Io non conosco peccato. Questo è il male del diventare grandi. Questo bisogno vitale per cui morirei. Essere amata. La mia ultima tappa. Convalidatemi. Autenticatemi. Guardatemi. Amatemi. L'ultima fase, l'ultima tappa, quella finale. Cade una neve nera, anche nella morte mi tieni, mai libera. Io non voglio morire, nessun suicida ne ha mai voluta. Guardatemi, scompaio. Guardatemi, scompaio. Guardatemi, guardate. Penso che tu pensi a me come volevo che pensassi a me.